sì. Antonio sono, buonasera. Ciao, no, vabbè, che fine hai fatto? Calma, tu che fine hai fatto? È la settantenna. Settantenna? E come ti è successo? Andata accordata. Addirittura accordata. Ecco. Ma vuol dire che fai stazionaria? Si è messo a posto sto capo di coso. Hola, ecco qua. Hola, già va bene. La vecchia mi puoi, quella vecchia è vecchia, sono come la nuova. E hai detto che era una brutta nera. Ah, c'è un buon segnale, e dove sei? Penso sia una Roma. Come 3 mesi, sono a Pisa. Ah, ecco, c'è un buon segnale, c'è. Cioè, 9.15 Radio 5. E quello poco è scuro, Ciccio. Io esco bene, era lì. Gappa, vai forte, mi senti lì? Passaggino. 1, 2, 3, prova. Allora sì, la forza scala è Radio 5, perfetto. Ha un grido, via. Ecco qua. Adesso c'ho anche le stazionarie a posto, perché ogni tanto questo road retro bisogna regolarlo. E lei 4-4? E cosa? ZG 2-3. Ah, tanto funziona bene. L'ho installato 4-4? Che cosa? Fatta 4-4 l'ho installato. 4-4? Già lo sai. No, non sto usando tanta potenza. La potenza dell'apparecchio. Già riesci bene, leva tranquillo. Capana, no, sanno una cinquantina di watt neanche. Ma adesso mi sono tutto a casa, che devo fare poi comincio la casa mia e sono già stanco per oggi. E che un bel gaglio. Già lo so già. Perché aggiungi a brucernaio io, no? Che... stasera, ho detto, a Platamora, vedo mi fresco. A Platamora di rifare oggi? Allora, ma come sei lasciato a casa? E allora, quanto vai il vaccino tu? Fatto, tutto già fatto, poi dimenticato. Ho messo, ho scaricato il Green Pass. Ho fatto, dimenticato, tutti quanti sono vaccinati. Già, va bene. A che giorno passa al circolo a Costantino, in corso Vittorio Emanuele? Di passare al circolo in corso Vittorio Emanuele? Non si piace quel circolo, io non mi piace mai i circoli. Fa una cosa, ci cantiamo, cazzo, ci facciamo una cantata, ma corrimo. C'è una fatta nuova, amico del fresco, come c'è nel Tropical. Cappa, qualche volta vado lì, vado a... faccio una cantata, mi faccio e sono tranquillo. A me piace di cantare, mi piace. Sì, ma a me io cantavo la tropica con le ragazze. Ah, Portamona. Portodora. Ah, Portodora pare. Aspetta che c'è un messaggio. Ehi, guarda che messaggio. Hola. Hola Rosa. Kappa, capito? Te lo dicendi? Io canto, cazzo, mi ha dato così. A me mi piace, capito? Ma c'è stato il karaoke, e bacia. Faccio il karaoke. Tu mi dici se canta in una certa maniera pure, In che senso la maniera? Non si sa se hai cantato in cultura, non a karaoke. Ma cosa? Ah, sto scherzando. Ma come mi sono, freddo? Qua sta bene, a casa. È profumo buono, che sarà, e prendi un gozzo, fa stare le vongole. Ah, se dai tante, io sono tu. Mi sembra che ho pasta ai granchi e così dal resto, ma niente di che, ma roba leggera. Già andate, lascia lì, mi ha dato un pallino in capo. Mi ha dato un pallino in capo, ha già fatto un carro a ruscio. C'è il barbecue quello portatile. cioè, quello che si usa con la bomba grande. Ha giù fatto carrarlo su, più non posso, ne ha mangiata. Hai fatto bene, devi fare così nella vita, mangiare e divertirti, è fregatene. Capa, no, la mia vita è così, travagliare, mangiare e divertirmi, e mi ha fatto un cazzo. Stasera, stamattina mi sono fatto soldi in più, c'era un rivenditore che gli mancava l'operaio e gli abbiamo portate noi le bombole. E mi sono cubitigato pure una bacigioia oggi. E oggi va bene, non mi pare vero. Non mi sembra vero, metà mattinata gli ho fatto, gli ho portato la bombola sua, mi sono fatto 25 euro, mi sono fatto, in più a quello che mi devono dare, Mariso, a Trilampe. Cri, no, non ti ho sentito in questo passaggio. Hola! Mi senti anche? Ehi, dimmi! Come sono il segnale adesso? Già ti sento, adesso è un bel basso il segnale. Qui sono a casa mia già, figurati, in campagna. Cappa, ti stavo dicendo Cri, che mi sono occupato, cioè 25 euro ce ne butti. Metà mattinata gli ho fatto e gli ho portato le sue bombole, e oltre le nostre gli ho portato anche le sue, e lui gli ha detto, il mio principale gli ha detto, no, dalli Antonio, gli ha detto, dalli Antonio, arrangiati con Antonio, a me io no, però 25 euro in più mi ho fatto, Mariso. Sono già vanno bene, a voglio, magari faccio un po' di soldi ancora, io se ne fida per adesso. Capa, ce l'avessi fatto, ma da adesso è stato 50 euro. Male sono. Cazzo, hai travagliato. Oh, ne ho portato più delle sue che delle mie, Però cazzo è... Cioè, cazzo, ce l'avevo fatto tutta la di, ci avrei fatto mattina e sera, perché oggi, vabbè, oggi è sabato. Avrei fatto mattina e sera a casa di 50 euro. Ma ti dirampi? Ma guarda, io mi sono una schiaffa e me la 6-4 ore giornata, io lavoro. Il minimo, non fai altro. Cappa cappa. A me mi piace travagliare, quando bisogna di là io sono contento. Dico la verità, sono contento quando ci sono i soldi qui. Fammi mi già, mi ha fatto un travaglio, non come ti chiesto a saggio, ancora non mi ha dato ridina. Cazzo ci ho tagliato reba, mi devi dare, gli ho chiesto solo 30 euro perché era poca cosa, ancora mi devi dare. Quello, qualsiasi battaglia, isso. Ma però che prima o poi mi ridà, perché io lo ricordo, guarda che il lavoro te l'ho fatto. Cazzo. Io faccio solo manutenzioni e basta, come non faccio altro. Capa! Purtroppo c'è mai gente che non fa, cioè non è che non mi pagherà, prima o poi mi ridarà. Ma va! Intanto questo non servi il sole. Ma quando lui mi chiama che c'è da tagliare, no, dammi i dinari, dico. Prima mi dai i soldi che io non devo stare a aspettare, perché ho anticipato anche la benzina. Io non devo stare a aspettare, prima lì mi dai i soldi, poi gli faccio il lavoro, eh. Ma io non ti piace, ciao, arrivederci, grazie. Ehi capa, ci sentiamo. Dai, sono intanto il macchino acceso, quando devo chiamare, se ti rispondo bene, ce la faccio, io sto lavorando, va. Capa, io mi sto scendendo giù per vedere che prende a magna e ci sentiamo, ok? Bocca al combatti via. Hola chicos, unia signare, care ghiccio. Noi. Capa, beh, buonasera, e beh, Daniel, come va? Tutto bene? Yeah. Tutto a posto? Una pulita, perché c'è un po' di polvere, a me mi gira, di yo-yos. C'ho un biovaro. Tutto rosa, per girare un po' di qua. Ora ti ha giù visto 9.40, care ghiccio. Che esagerato, ma è così forte. cosa scherza? Ah, esitami. Stanno di tibarlemi. Aspetta. Un attimino. Guarda. Ecco qua. Parla, oh, parla. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, senti un altro caffè. Va, te l'ho mandato proprio per vedere com'è, te l'ho mandato. Ma io non lo so, fino adesso arriva. Papà, non lo so, Antoine. Scappa, ma non dici balli, mi, capito, eh. C'è 9.40 c'è qua, e vabbè, non è che c'ho cacciato lontano da Denno, scusa, eh. Di adesso, vicino a tu. Negativo. Grazie, è stata per la ventoria dell'alimentatore. Pensavo che facesse rientro e ce la metto. Capa, ma stavo dicendo, e io quanto ti arrivo di segnale? 9.30 sei al tu. Capa, ma con picchi qua già 40, no? No, 30... 30 con picchi abbondanti, non ci arrivi a 40. No, non mi arrivi, 9.40 mi arrivi, a voglia. Ho molta più ricezione io, non lo so. Sì, non lo so, anche perché l'ho accesa la stamattina, io capisco. Gaffa, gaffa. Lo do un po' senza farla andare. Ogni tanto. Avanti di nuovo a Gregory Pecchi. Lo facciamo fare un paio di passaggi. Adesso, raga, lo cagli. Buonasera, Gio Maria, sì. Sì, Gio Maria, sono. C'è un bel forte, sì. Che gli hai fatto? Quando? Perché quando? Scappa. Sei 9.20, sì, Radio 5. Ancora, ma stai strappando di modulazione? Sì, vabbè. Abbassa appena appena il Mickey Game, prova. Mari. Sì, sono qua. Ma tu sei Gio Maria? Tu sei cosa sei? Giulio? No. Vai che sei Giulio Dollaro, tu. Sì, dovrebbe essere questo, il nostro amico dovrebbe essere un pezzo è sceso, ha senso a cosa, come si dice, in senso contrario, che lo poteva scendere, perché non sono arrivato di transito scendendo. Arrivato a un certo punto, si sbatte il piede la luce, l'angola, si sbatte le tre macchine e non ha che capotato. Vabbè, vedo i buissotti, vedo che stanno facendo rilievi, cose dell'altro mondo, no? Ma che dai. Niente guaccia, cosa vuoi faggio? Dai, un giovanotto mi, cosa? Come avete sui cani? La valigia di Riccardo, se aveva fatto la valigia di Riccardo, li già il mare se aveva campato. Raga, ma pigli che è meglio, per carità. Non ripeta ni nulla, no. Per carità di Dios. Sono in compagnia di cosa sono? In compagnia di Daniele. Avanti Daniele. Per Giulio. Buonasera Giulio. E allora? Ciao Daniele, io ti ho salutato poc'anzi, non so se mi hai sentito. Vabbè, così è. Un appunto nuovo a nuovo. Oh, non è possibile. Vedere una serie di ragazzi che guidano in questo modo. E io che giù. Sono abito io. Uno è entrato, nel senso unico, è entrato a cosa? In direzione contraria. Si è sbattuto un po' la luce, mi ha buttato un po' la luce. Poi si è sbattuto a una Clio e poi altre due macchine che erano parcheggiate, sempre lì. Come ti ha mancato? E poi ha capotato, tra l'altro. Guarda che lato, e c'è la polizia che sta prendendo tutti i rilievi. Dopo, ascolta, Gemmo. Bravo, raga. Ma è stato così, tu, per sentite troppo alto. Stavo trappando, stava. Nemmeno compressorio, vediamo un po'. Sì, forse hai ragione. Vabbè, dai, dopo arrivo. Vabbè, dai, siamo di passaggio in questa stanza. Adesso vi saluto, ci sentiamo più tardi eventualmente, dai. Adesso hai migliorato giù, sei più comprensibile, dai. Aspetta, dai. Adesso l'ho abbassato un po' il mic, adesso meglio va. No, faccia così, non toccare più nulla. Mic come lo sporco, no? Ogni tanto si sposta, che benzello, va. Non mi passo più pennello allora, vai. Così almeno trovare. Lascia la polvere sopra, bene va così. No, che vogliono pulite. Io sono al massimo della potenza, come mi sentite? È abbastanza bene. Kappa, è da molto vera, se no va a finire che mi si rovina. Va a finire che mi si rovina e quindi devo farlo andare un bel po', se no è un casino. Andare così, dai. Va bene. Quando arrivo a 9:10 a me mi basta, mi va bene così. No, che c'è 9:20, no, che cosa 9:10? Vabbè, vuol dire oggi è più forte, vabbè. Ci sentiamo, dai, a dopo, dai, che vado di nuovo a controllare la situazione, come sta andando. Meno male non si è fatto niente con il ragazzo. Ma comunque, una cosa sì, sai, ora va ricarricando. E non è la mia buca cavata la gallina, perché uno che fa queste cose è delinquente, ma conto mio. Dopo con i sex psicologici mi verranno voluti, per carità. A momento schiacciamo la ragazza che c'era lì dietro la macchina, perché la macchina l'ha presa una, l'ha sbattuta al muro addirittura, che l'hai fasciata sia a destra che a sinistra, l'hai fasciata. Meno male che la ragazza è riuscita a saltare e non l'ha presa, se no la schiacciava con la ragazza. Ah, non avevi abbigliato la patente a questi personaggi, cosa? Ora la patente, dai la New Good e basta, cosa stai lì a questa gente, gente pericolosa, intanto tu gli togli la patente, dopo un anno gliela restituisci e fa le stesse cose, perché sono cabe mancanti, cosa? Adesso bisogna dare la New Good. Lo so. Vabbè, dai, ci sentiamo più tardi, se coincide, dai, ciao, ciao a tutti, ciao Daniele, alle prossime, dai, ciao, chiudo. Ciao Giulietto, alle prossime se coincide, dai, buona serata e buon tutto. Riprendi, Bobolì. Kappa, guarda a vedere che sono al massimo della potenza, come ti arrivo lì? Sì, sempre 9:30 tu. Domani, allora vuol dire che metto soldi qui su Smitter. Non credo, perché il segnale di Giulio è sempre lo stesso, da una vista, diciamo. Scusami, ma se sono capace con 200 watt, come è possibile 9:30? Dove ti intanto, questo segna così, questo sto dicendo. Kappa, si sente la compressione. La funde tutto. Benissimo, vado a fare i passaggi adesso e poi prendo e come si dice e lo spengo. Giusto per far funzionare le cose, Nianto, se no si approfittano. La valvola. No, succede veramente così, Nianto. Invece non è 5 che si è trovato a funzionare tu. Non ti muovi sotto casa, no? Non ti c'era. No, hai già detto, non ti muovi sotto casa, no? Vabbè, ci disattorano un maracchino. Poi intendevi a voi fumo. Matteo, che ci muove sotto casa. Gaffa. Va bene, tu hai fatto tutto a posto. Gaffa, allora ti mando una fotografia. Scendo giù a vedere cosa è conveniente la mia signora. Dai, ci sentiamo? Capo di no, sei troppo buoni, dai. Dopo si diventa che te con la serata. E alle prossime sei coincide. Capo, ciao, ci sentiamo. Ciao anche. Chi è? Daniele, là, sono altro po' qua, su, e dopo vedo cos'è con tu, piano piano, vedo già la fatta che andendi, cappa, quanto dirai lo vaccino? Brava, tutte e due le cose ho fatto a tu. Io devo fare la seconda, del vaccino, non era più boccio di suo voglio, no? Via. Che strano. Cazzarola. Ma che ci voglio nel raggio boccio? No, quel pugno che mi hanno dato, sa, dov'è? Non riesco a trovarlo, quel foglio che mi hanno dato loro, perché ieri ho fatto il Green Pass e pure in Fabiro. E cosa succede in quei casi? Dovrebbe risultare allora tu nel come si chiama, nel sistema. Quindi anche se io non lo trovo, perché non mi ricordo dove ce l'ho messo. Ieri sera ho fatto questo in Fabiru, il Green Pass, quello vero, là, in Fabiru. Va bene, lo stesso o quel foglio ci vuole per forza. Quello di Milano era appuntamento, ma già tanto che il risultato lo stesso, portami anche quello che hai fatto ieri sera. Prima. Ma l'appuntamento c'era sul cellulare. Che deve sapere del cellulare? Cappa, ce l'ho il 25 l'appuntamento, ma non trovo quel foglio, capo, dove capo l'ho appoggiato? E cosa hai fatto? AstraZeneca? Moderna. Ah, tu sei moderno. Va bene. Mi sono prendi poco, casino, cazzo, Daniele. Del capolo. Ho servito 30 secondi dura, neanche. No, io invece ho fatto il Pfizer. No, ma dice che è uguale il Moderna. Però se lo sanno. Comunque fatto l'abbiamo, la meglio per la parte. Che rock and roll. Come c'è la coda? Che è? Buonasera a tutti, Cristian. Ciao Cristian, mi hai sentito in compagnia mia e di Antonio Mombro. Vai anche per Cristian. Capa, ci siamo sentiti poco fa. Allora, qua nel cellulare dice come della data il 25/08/2021. Io non trovo quell'altro foglio. Cosa gli dico che l'ho perso? Dovrebbe andare bene lo stesso. Deve essere ecco, va bene anche tu. L'appuntamento è stato nuovo. Corteretto, lo presenti e l'accettazione e via. Cappa, io mi raggio ieri in farmacia, me l'ho fatto mettere, mi hanno preso 50 centesimi, me l'ho fatto mettere sia qua nel foglio, me l'ho fatto fare sia in Pabiru che in coso, come ci dice? Che è il telefonino? Allora, riprendi Cristian. Quello che invece ho fatto, non è fatto, io l'ho già fatto, penso benissimo. Brava, brava, riprendi altro che ho sempre fatto, lo sento. Cristian, ha detto che lui l'ha fatto, sta benissimo, ma pure io non so gumoccio, la verità è. Grazie a Dio sono qua. Sono un po' di pagliacci, mi sono in giro. Cosa? Come ti dici chiedo? Pagliaccio! Ma mi giurai? Cappa! Tutto pieno di pagliacci, cosa? Se sono andato, me l'ha già fatto, grazie a Dio, sono tranquillo, non ho nulla! Cioè si pone in affari forti di cose, ma esiste il governo cosa le sistemi a questi personaggi. Oddio, io ancora non abbiamo capito che cioè ce la vogliono mettere dietro. Ce l'ho messa dietro. Cazzo, molti che so prendere il voce. Andava a fare un coso, lo reddito cittadinanza, va di. E dice, lì per entrare in ufficio ci vuole Green Pass per fare questi documenti. Non lo puoi fare la bomba da reddito. Cazzo, ma mica la gente è veramente imbecille. Cioè, c'ha chi c'ho vaccino, sarà pure Eva, sarà, cioè, magari pure così, cioè, non è nulla di particolare. Ma partito, ma cazzo, ma mamma mia, la gente non ragiona col cervello. Io non ho ragionato bene col cervello, a chi non so gumacco, no. Eia! Eia, facciamo un po' questo, dai. Aspetta, sta fischiando, è sta cosa. Guarda com'è. Una bomba, è una bomba, 9.40 Radio 5, com'è lì lo smitter? Com'è arrivo lì? 9.35 e così riesco a sentire pure la Cristian con questo. Ma io già la bomba qui, la mia, tranquillo. Qui la mia, la famosa scala, la radio è perfettissima, con l'eco perfetto. Guarda, che è la voce di qui? Ma chi arriva più forte, io o Daniele? Fate un passaggio. 1, 2, 3, prova. Un passaggio, Daniele. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5. Si fuote Daniele in pieno qui, come radio. Vabbè. Cappa. Io vi saluto che sono pronto, è pronto a magnà. Ci sentiamo, ok? Ciao, sento un'altra voce. Non è sonno, a casa mia c'è solo mia moglie, boh. Vabbè, dai, che qua è già pronto, vado a fare un po' di carichetta adesso.